di così ti ne qua e così dopo sono a posto. Va bene, chi c'è? Tu, Antonio, poi chi c'è? C'era che Torre Angeli è andato a caricare, lui andava subito, caricava un po' e rientrava subito. Va bene, va bene. Salvatore non c'è più Paragrito. Sì, va bene, se ne attento Salvatore Paragrito. Siamo con capelli. bene, è una bella radio pure, va più che bene, molto molto bene. E se è una cosa improvvisata, dai, un microfono così, un'antenna, insomma, già va bene comunque, ma almeno può parlare da casa tranquillamente, senza la usata in macchina, lo prego. Passaggio 1, 2, 3, 4, 5, Mauro, Sverme, Euro, 4, 5, guarda, quasi rompe, quasi poco, scappa, e qualche duro ma è basso, è basso, è basso, quasi rompe, la malata di ore pulita, appena squillata, no? Sì, l'aria deve appena, io. Sempre in temperatura dopo per far danno. Va bene, bene, bene. se non ce ne sono. A dormire sono andati. Vabbè. Bene, bene. Lavora, lavora. Così finisci tutto lì e poi vai in ferie. Sì, in ferie, bisogna attendere alle pecore. Oh, pecore, pecore. Cappa, cappa, le pecore, bisogna mungerle. Voglio mettere quelle due gambe, che forse sono meglio, cosa ne dice lei? Quelle già vanno meglio, mi dico, le a quattro, sabato. Così è. Allora, quelle sono meglio, poi sono veloce quelle. E c'ha ragione, bisogna tagliare la lana, al tempo suo. La metta le passi sabato, fai prima. Taglia la lametta. Già taglia, già taglia. Glielo spunti con la forbice e poi le passi alla metta. E le fai il pizzetto, le fai. Sì, Allora, vero Antonio? Sì, è vero, è vero, è. È vero, è vero, è. Mister Mandarino. Lo sai che fai? Come ti hanno detto, non vedono anche a sul tuo computer? Sei tu che non usarli. Bisogna fare la spunta. Quando tu accendi il computer fate il contatto, capito? Io un attimino, che vado a caricare, dai. Compattatevi, adesso ci mando le due miti, va, non va. Certo, comunque deve essere una bella cosa, mio. Certo, questa cosa che ti racconti con Eta, a trovare Salvatore interessante vedere tutto il complesso, dai, del residence nuovo che aveva fatto, eccetera, e il padre ci ha fatto una cosa da bere. E stavamo bevendo vino, basta. Era una trattoria a mangiare, la faccio magari mangiare roba russa, mamma mia, la controllo, sì. Ma dopo lo fai, no, dopo lo fai, non c'è posto, che poi è un po' comune, adesso appena rientra il suocero del figlio di Luigi, Antonello, stiamo organizzando una bella zuppa di pesce giù da Gigi. Ma zuppa di pesce, ma non ti piace? C'è una barruzza ancora meglio qua. Forse zuppa di pesce la metti pure in mezzo, non è problema. E non vuoi la massa, poi sciogliamo. No, facciamo una bella zuppa di pesce. La fantorella, poi non so se facciamo qualche pesce arrosto, qualcosa, non lo so. Non lo saggio. Comunque stiamo già organizzando, non ti preoccupare. Dovrebbe essere il 22 di questo mese. Dovrebbe essere il 22 di questo mese. Quindi, invitati alle radio siamo io e tu, Antonio. Poi c'è Pinocchetto e poi il resto, tutta roba di Gigi. Ragazzi, ma non c'è problema, ci organizziamo qua. Capito, non c'è problema. Organizziamo. Ma tu ricordami quando scendiamo da Luigi, ma cazzo mi hai detto, ma lo ricordavi o non me l'hai ricordato? Che lo devo portare con l'antenna della macchina. E tanto io non me ne faccio niente. Quella che ciò che si piega, capito? Che lui le serve a trovare il problema nel camion. Già te lo ricordo io. Sono arrivato a 95, sono arrivato. E cazzo, non ti sei di saturare con le braccia di me. Io faccio un cazzo mattina alla sera, sempre bruciato in macchina. E andando in torrente, mettere dei righetti. Lo so. E quando ti può aumentare il peso, sai, stanno sempre seduti. Ma guarda che mi fa male anche la schiena quando, sto nella mia macchina, figurati. Nella mia, che è piccolina, anche quella mia cognato, che fa una macchina enorme. Ma mi ero rotto cerie due volte, perché c'è la spalliera di quelle riscaldate e poi si gonfia, si abbassa, non riuscivo a tenerla né rigida né morbida, cazzo, mi fa male la schiena, non c'è niente da fare, troppo viaggio in macchina, cazzo, ma cioè, ecco perché ti ho detto ma ne voglio scendere la macchina, però rimanere qua vicino, se poi decidono, cazzo, invece di tenermi qua a Sassari, magari a Canica, di mandarmi a seguire i lavori a Tiesi, al depuratore di Tiesi, cazzo, no, allora non dovrei porre macchina a viaggiare, no, meno diciamo, come si dice, meno delicata, dai, capito? Ho detto, già mi tengo questa e già sto più attenta, esce, mi dite, la salita è l'ultima, ma esce data, l'unica notte, la produttore c'è una festa, quindi il lavoro, compleanno, e a dei punti ha iniziato a andare a colpi, siccome si è spaventata, allora si è fermata, mi ha telefonato, sono vestito e sono andato a prenderla, lì ha preso la mia, ha preso la sua, l'ho portata direttamente alla Mercedes, sono le guardie, c'è la guardia la notte, capito? L'ho messa lì, neppure lunedì mattina, ho telefonato, sono passato a portare le chiavi, l'hanno messa subito in lavorazione, ma andiamo bene. E comunque bisogna dire Miami, adesso mi pare mi abbia detto questo anno, perché quelle candele vanno cambiate tutte, mi costa un sacco di soldi, sono figli mini, costano 20, 23 l'una mi sembra, quindi 6 candeli, più l'iniettore, più tutta la messa a punto, il prova a testa, bimbo va, sempre di 6-2-3-3 l'una. Perfetto. Ma se si muove, lavora bene. e sul campo lavora bene. No, poi sono sedi, no? Se dici domani la macchina è pronta, domani è pronta, no? Sono persone troppo a posto. Io ho iniziato appunto a andare a da quando siamo conosciuti alla radio, perché prima mi serviva da un altro carrozziere, però mi ha fatto anche la macchina mia, ha fatto l'Audi, mi avevano tamponato perfettissima, no? C'erano una mano d'oro, sono bravissimi. Poi c'è il fratello d'amico, il terzo è troppo bravo come carrozziere. Come mi sentite? Sì, penso che mi senta. Beh, abbiamo sempre sentito qua, eh. Scarico ancora, lo sto caricando. Esatto, no, ma qua sei sempre arrivato, anche nel mio PR qua sei sempre arrivato. Lo so. Sembrano parecchio quello lì. Esatto. No, non ci sono mai stati problemi di questa zona qua, lo sai. Sia il PD, MPR, sono sempre arrivato. Perché c'è quel varco lì che ci fa... ci fa vedere le antenne praticamente, là. Sì, capo, ragazzi, poi qua, questa zona, che è difficile, cioè che... Guarda, è forte per la...